Avventurieri, è il momento di contrattaccare. Il mago nemico sta recuperando le forze. È la vostra occasione per colpirlo con un attacco concentrato di energia. Ma attenzione! Dovrete calcolare con precisione la forza e l'energia necessarie per raggiungerlo ed essere davvero efficaci. Per ottimizzare i tempi, dovrete dividervi i compiti. Ascoltate bene, druido e mago, tocca a voi preparare l'attacco. Unite le vostre forze. Ognuno di voi può contribuire con 4 unità di energia che si sommano in un colpo solo. Sappiate però che il nemico è protetto da uno scudo magico che assorbe 3 unità di energia a ogni colpo, annullandone gli effetti. Per danneggiarlo, dovrete quindi colpirlo con 50 unità di energia dannosa, ossia quella che non viene assorbita dallo scudo. Ragionate attentamente. Quanti attacchi dovrete preparare in totale?